cosa mi sia successo da un po'. Non so se sia il momento di smettere. Ricordo quando io mi godevo ad uccidere e vedere il sangue uscire dalla testa di ogni soldato. Diserterò, diserterò da ogni videogame che incontrerò. Diserterò.